Una buona serata, ben ritrovati insieme su Rock FM, la voce di Marco Gravelli, il nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché voi all'ascolto, il nostro Simone che ha preparato come sempre la tracklist e le varie notizie, biografie varie relative alle band. Come sempre noi iniziamo con qualcosa che arriva dal passato, questo è un album molto bello, molto importante, una formazione magari non molto nota in Europa. Avevano scelto come nome semplicemente un numero, 707, questo è il nome della formazione, band americana, hanno proposto un hard rock melodico creati nel 1976 dal cantante chitarrista e dal batterista. A lineup completata pubblicano un singolo che raggiunge la 50ª posizione nelle classifiche americane. Ciò gli vale un contratto con l'etichetta Casablanca Records, la stessa dei Kiss, che ne pubblicò l'omonimo album d'esordio nel 1980. Dopo un secondo lavoro non troppo entusiasmante, arriviamo al 1982 con l'ottimo terzo Megaforce, che ad oggi è il loro miglior lavoro. La band è ancora attiva, tanto che il loro ultimo album, dal titolo The Fourth Decade, è uscito lo scorso anno. Li andiamo a proporre ed ascoltare con questa canzone che si intitola Megaforce, apriva l'album, dava il titolo allo stesso, era anche il singolo che arrivò al numero 12 nelle classifiche rock americane e 62esimo nelle classifiche generali. 707. titolo del brano, titolo dell'album, canzone inclusa anche nell'omonimo film, colonna sonora proprio del film che si intitolava Mega Force. Erano i 707 direttamente dagli States, dal loro terzo album. Andiamo in Inghilterra invece, periodo della New Wave British Heavy Metal, dove usciva il primo album da titolo Fire Dance per questa band, proprio inglese, proveniva precisamente dalla città di Bristol, composta da soli tre elementi. Nacquero nel 79 e nell'82 pubblicarono appunto Fire Dance, dal quale furono estratti ben due singoli. Seguono diversi demo, ma non riuscirono poi a trovare un'etichetta che ne pubblicasse il secondo album, che rimane così nel cassetto. Così arriviamo al 1983, quando la band decide di sciogliersi. A sorpresa, vent'anni dopo, nel 2003, il gruppo si riunisce, pubblica nel 2004 un album dal titolo Continuance, con alcune tracce che originariamente dovevano far parte del loro secondo album. Il gruppo si chiama Shiva, richiama un po' l'Oriente, anche nella copertina di questo album Fire Dance, che venne pubblicato, ripeto, siamo nel periodo della New Wave of British Heavy Metal, su un'etichetta proprio inglese, che molto molto particolare, che si dedicava proprio a queste band legate a quel genere, a quel sound, ed era la Heavy Metal Records, etichetta che poi scomparve. Pubblicò tantissimi album e singoli in quel periodo, che rimangono ancora tutt'oggi molto ambiti dai collezionisti. Quindi direttamente da questo album andiamo ad ascoltarci le note del motivo intitolato Borderline per la formazione degli Shiva. Questo è il titolo Borderline, dall'heavy metal inglese anni 80 all'heavy metal italiano invece del 2007, perché stiamo parlando dei Vision Divine, del loro nuovo album. Protagonisti, lo ricordiamo, del Italian Legion Attack al Transylvania Live di Milano una settimana fa insieme a Node, Domine, Macbeth, Rain e Sadist. Sono usciti nel mese di giugno con questo nuovo quinto album dal titolo The 25 The Hour. La band è capitanata dal chitarrista e leader, nonché fondatore, cioè Olaf Thorsen, che ha visto nei primi due album alla voce Fabio Lione dei Rhapsody, mentre dal terzo è subentrato il bravo Michele Luppi. In tema proprio di line-up, segnaliamo ben tre cambi di formazione, cioè Alessio Lucati alle tastiere, Cristiano Bertocchi ex Labyrinth al basso ed Alessandro Bissa alla batteria. Per quanto riguarda questo nuovo album, uscito su etichetta italiana Scarlet Records, 11 brani, e si tratta della seconda parte di un concept che riprende la storia del terzo album. La produzione infine è stata curata dal celebre Timo Tolchi degli Stratovarius. Li ascoltiamo con Alpha and Omega, sono i Vision Divine. Flesh and blood, I was feeling poison. da un prodotto abbastanza recente, questo degli italiani, ottimo direi, questo nuovo lavoro dei Vision Divine, Alpha and Omega, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo all'AOR, al sound piuttosto melodico, ben inciso, ben prodotto. Una band svedese questa, anzi danese, comunque paesi scandinavi, abbastanza famosa per la pubblicazione dei loro album, anch'essi molto ricercati, anche se poi sono stati ristampati vari CD. Sto parlando degli Skagarak, questo è il nome della band, abbiamo detto danesi, propongono dell'AOR. È sicuramente una delle migliori formazioni della seconda metà degli anni 80 europea di questo genere. Il gruppo nasce esattamente nell'84 come trio, in principio proponevano soltanto cover, poi con l'aggiunta di altri due musicisti registrano un demo e trovano il contratto con la Polydor Records. Nell'86 viene pubblicato il loro album d'esordio Skagarak, che vendette, pensate un po', 120.000 copie, quindi niente male, disco d'oro e tour di spalla ai TNT. Nell'88 segue il secondo lavoro, altro ottimo album, Hungry for a Game, prodotto da Tommy Jensen presso i Jailhouse Studios, e nel 1990 esce A Slice of Heaven con il produttore Michael Wagner. Tutte ottime produzioni che purtroppo per la band non furono confermate invece con il quarto lavoro del 1993, e quindi a questo punto la band decide di sciogliersi. Nel 98 c'è da segnalare una parziale reunion, ma a tutt'oggi la band non esiste più. Dall'album Skagarak andiamo ad ascoltarci allora le note di Moving on the Night, che fu anche il singolo, realizzarono anche il video di questo brano che apriva il loro lavoro, Skagarak. Le note di Movie in the Night, brano che apriva il loro primo album dell'86, 120.000 copie vendute per i danesi Skagerrak. Da loro andiamo alla prossima band e chiudiamo un po' con il passato. Rimaniamo come per i precedenti inglesi Shiva, ancora nel periodo della New Wave of British Heavy Metal, ancora la stessa etichetta discografica, la Heavy Metal Records. Quest'album, anch'esso abbastanza difficile da trovare, addirittura in vinile rosso, loro ne hanno pubblicati in totale 3, si chiamano Witchfinder General. A differenza degli Shiva, che proponevano un classico heavy metal, loro sono decisamente più metal doom, con riff molto sabbatiani, riff molto pesanti. Due album in studio e un album live. Creati dal cantante Zeb Parks nel 1977, pubblicarono un singolo nell'80 e poi il primo lavoro, 1981, dal titolo Death Penalty. Segue quindi in cambio della sezione ritmica e pubblicano il secondo Friends of Hell. Da particolarità, le loro copertine sono sempre presentano disegni o foto in cimiteri con fanciulle, modelle in questo caso poco vestite. Però le cose non andarono bene con il secondo album. Diciamo, nell'83 esce questo Friends of Hell, non vendette molto, la band si scioglie ufficialmente. Lo scorso anno però è uscito un CD live dal titolo Live 83, che ci riporta uno dei loro concerti proprio del 1983, quando erano alla fase finale della loro storia. Questo primo album che noi andiamo ad ascoltare dal mio personale vinile, comunque se vi interessa, è stato ristampato in CD nel 1996. Il pezzo che vi propongo è il brano che dà il nome alla band, Witchfinder General, dall'album Death Penalty. Just con le note di questa Take Me Down iniziamo la seconda parte dello spazio di questa sera di Hard and Heavy su Rock FM con la voce di Marco Gravelli. Questi erano i Great White, storica band americana, uscito 10 giorni fa su etichetta Frontiers Record, questo nuovo album per la storica hard rock band che celebra quest'anno 25 anni di attività, nonché 25 anni dalla loro nascita, e lo fa con questo lavoro, Back to the Rhythm, questo è il titolo dell'album. La band in effetti è stata creata nell'82 dal cantante Jack Russell e dal chitarrista Mark Kendall in seguito allo scioglimento dei Dante Fox. Il gruppo ha un curriculum di tutto rispetto, con oltre 6 milioni di dischi venduti nel mondo. La loro carriera inizia nell'82 con la pubblicazione di un EP che vende 20.000 copie e che gli permette di ottenere un contratto con l'etichetta EMI. Le cose all'inizio però non andarono molto bene, poiché l'omonimo album di debutto, uscito nel 1983, prodotto da Michael Wagner, non ebbe successo e ciò gli fece perdere il contratto discografico con la EMI. Il gruppo a questo punto si autoproduce con la pubblicazione del loro secondo album, Shot in the Dark, nel 1986, che venne poi distribuito in America dalla Telegraph Records. Con questo andarono sotto contratto con la Capitol, e che ripubblicò anche il lavoro, che entra nelle classifiche americane dei top 100 album più venduti. Gli valse un tour di supporto con i Dokken. Ad oggi è considerato il capolavoro della band. Questo nuovo album, Back to the Rhythm, è stato prodotto e mixato dal tastierista Lardy e noi abbiamo ascoltato e proposto le note di Take Me Down. La prossima band si chiamano Ride the Sky, è il nuovo gruppo del batterista Uli Kusch, ex Halloween, ex Gamma Ray, ex Master Plan e protagonista 2 anni fa con il progetto Beautiful Scene. In line-up ci sono il cantante Bjorn Jansson dei Tears of Anger ed anche dei Behind Twilight, il bassista degli Ex-Savior ed il tastierista dei Dionysus e Stormwind. Uscito nella metà del mese di agosto tramite etichetta Nuclear Blast, questo album si intitola New Protection e si compone di 12 brani più una bonus track. Infine, giusto per cominciare nel migliore dei modi, la band suonerà di supporto ai Sonata Arctica ed agli Epica per il loro tour europeo che li porterà anche in Italia il 19 di novembre. Li ascoltiamo con questo brano dal titolo Corroded Dreams, sono i Ride the Sky. Change inside, can't hold on much longer. My death will be mine. parte di Corroded Dreams, da New Protection per i Ride the Sky. Altra uscita importante questa settimana sarà nei negozi il lavoro di questa band che si chiamano Ice Dearth, con il gruppo americano, quindi del chitarrista e leader John Schaffer. Da segnalare che rispetto al precedente album c'è una doppia variazione in lineup, con la sostituzione del secondo chitarrista e del batterista, che vede il ritorno di Brent Smethley, che aveva già militato nel gruppo in passato, confermato come vocalist Tim Owens, già ex Judas Priest e anche cantante dei Beyond Fear. La band degli Ice Dearth sarà a Milano il 10 di ottobre in concerto. Questo nuovo album è la prima parte di un concept ispirato da un loro passato album dal titolo Something Wicked This Way Comes del 1998. In effetti questo nuovo lavoro si intitola Framing Armageddon - Something Wicked Part 1. L'anno prossimo arriverà Revelation Abomination - Something Wicked Part 2. Questo nuovo lavoro presenta 19 tracce, anche se alcuni sono soltanto degli interludi tra una tracks e l'altra. Andiamo ad ascoltare questa Something Wicked Part 1 dall'album Framing Armageddon, Ice Dearth. John Schaefer from Ice Dearth, and you're listening to Framing Armageddon, Something Wicked Part 1, property of Platinum Dragon International. Hello, this is John Schaefer from Ice Dearth, and we hope you're enjoying your promotional copy of our new CD, Framing Armageddon. John Schaefer from Ice Dearth, and you're listening to Framing Armageddon, Something Wicked, Part 1. Essendo questo un promo CD, ve ne sarete resi conto, c'è la voce proprio del leader della band, cioè John Shepherd, che è presente, si chiama il cosiddetto Voice Over Promo CD, questo viene appositamente fatto dall'etichetta discografica per far sì che non ci sia una distribuzione di questo materiale via internet. Purtroppo a noi arrivano così le copie, quindi mi scuso, l'ho già fatto altre volte, se la canzone che vado a proporvi non è completamente pulita. Del resto è una piccola anteprima di questo Framing Armageddon, Iced Earth. Arriviamo anche per questa sera all'appuntamento con le Metal News. Il nostro buon Simone ha preparato numerosi cambi di formazione, allontanamenti, eccetera, eccetera. Partiamo con i Gravedigger. La band ha reso noto che è entrato in formazione un secondo chitarrista. Questa è la prima volta che il gruppo utilizza due chitarre, anche se ancora ignota è la sua identità. I soli indizi che sono stati dati è che ha suonato in una famosa metal band tedesca fino al 2000 e che è molto grosso di stazza. Savage Circus, la power metal band tedesca, anche se due membri sono svedesi, ha reso noto l'allontanamento ufficiale del batterista e fondatore Tommen Stauch, ex Blind Guardian. Quest'ultimo si è detto piuttosto deluso di come è stato cacciato dal gruppo. Il suo posto è stato preso dal bravo e celebre americano Mike Terrana, che suona anche negli attuali Masterplan. Evergrey, la band svedese, ha reso ufficiale l'ingresso in formazione del nuovo bassista. Si tratta dello storico bassista degli Stratovarius, Jari Kailunainen. Thunderstorm, la band metal finlandese, ha allontanato, ve lo dicevo, ci sono tanti cambi, ha allontanato dal gruppo il cantante e il tastierista a causa di motivi personali e delle scarse motivazioni che ultimamente hanno dimostrato. I sostituti sono comunque il cantante Tommy Salmela, che ha già prestato la sua voce in alcuni brani dei Tarot, e soprattutto il tastierista svedese degli Stratovarius, Jens Johansson. La band potrà quindi intraprendere il tour insieme ai Nocturnal Rise, che li porterà in Italia l'11 novembre. In Nevermore, anche nei Nevermore cambi di formazione, il bravo chitarrista Steve Smith ha lasciato la band. Non resterà comunque in attivo poiché ha già dichiarato che sta lavorando ad un progetto interamente strumentale di progressive rock di imminente uscita e soprattutto si aggiungerà i danesi 8 Sphere, che saranno a Milano il 14 di ottobre a supporto dei Dimmu Borgir. Parliamo invece di un paio di uscite. Posticipato l'arrivo del singolo degli Avantasia, la band di Tobias Sammet, la Project Band, infatti non più il 18 ottobre ma il 16 di novembre. Per quanto riguarda l'album, che si intitolerà Scarecrow, uscirà su Nuclear Blast a fine gennaio. Altra uscita importante, anche se un album di cover, riguarda i Queensryche. 13 novembre l'album si intitola Takeover. Ci saranno 11 brani, tra cui Innuendo dei Queen, Bullet the Blue Sky degli U2, Welcome to the Machine dei Pink Floyd, Red Rain di Peter Gabriel, Neon Nights dei Black Sabbath e altre tracce. Uscirà per la Sony BMG finlandese il 7 novembre un album dal titolo Guitar Heroes, che vede la partecipazione di soli chitarristi finlandesi come Timo Tolki, Alexi Laio, Empu dei Nightwish, Esa degli Amorphis, Sakari Jietala dei Tyrot, Nino Loren dei Thunderstone. Per le parti di basso c'è Lauri Porra degli Stratovarius, mentre la batteria sarà suonata dai batteristi di Children of Bodom e Winterson. Sempre in tema di Finlandia parliamo dei Nightwish, infatti è uscito il primo o secondo singolo dopo Eva, il secondo singolo degli Nightwish dal titolo Amaranth. Ci spiegheranno poi loro in un'intervista che noi abbiamo già effettuato a luglio e che proporremo tra pochi giorni in occasione della pubblicazione dell'album Dark Passion Play, il primo con la nuova cantante, l'ex Alison Avenue, cioè Annette Olson, che ha sostituito Tarja Turunen, allontanata dalla band nell'ottobre del 2005. Questo singolo, Amaranth, è disponibile in molte versioni, tra cui CD singolo versione 1, CD singolo versione 2, Picture Disc, DVD con il video 5.1 e 2.0 più il making of dell'album. Allora, andiamo ad ascoltarlo. Sono, naturalmente, l'abbiamo detto, la formazione dei Nightwish con il loro nuovo singolo Amaranth. Down in one by heart, alone without him, say voi il nuovo singolo della formazione dei Nightwish, prossimamente in intervista in Arden Davy, era Amaranth. Andiamo invece alla prossima band, un album che è consigliato da Arden Davy, è un 5 stelle Arden Davy, prendetene nota, quindi lo facciamo per gli album che meritano di essere acquistati e magari non sono i soliti consueti nomi famosissimi. Si chiamano Circus Maximus, è il secondo album per questa band norvegese di prog metal, arrivano da Oslo, sono in 5, avevano già impressionato con l'album d'esordio. I membri sono il cantante Eriksen, membri fondatori, i due fratelli Haugen che suonano chitarra e batteria. Sono nati nel 2000, dopo due demo entrano a far parte della etichetta Intromental che gli permette di ottenere un contratto. Così nel 2005 esce il primo capitolo, The First Chapter, questo è il titolo dell'album. A due anni di distanza arriva su Frontiers Record questo secondo lavoro dal titolo Isolate, che si compone di ottime 9 tracce con influenze che spaziano da Dream Theater, Symphony X e Conception, mixate dal famoso produttore Tommy Hansen. L'album ha raggiunto la 33esima posizione per gli artisti, per i soli artisti norvegesi proprio in Norvegia. Andiamo ad ascoltare questo estratto, questo brano che si intitola Wither dall'album Isolate, sono i Circus Maximus. Da questo album a 5 stelle, perché ve lo consigliamo caldamente, Circus Maximus, Isolate, il titolo appunto di questo lavoro. Siamo agli sgoccioli a livello di tempo, quindi la scaletta di quest'oggi si chiude con gli Epica, formazione olandese che arriverà il 19 novembre a supporto dei Sonata Artica e con i Ride the Sky che abbiamo ascoltato in precedenza. Lo scorso weekend è uscito questo nuovo album dal titolo Divine Conspiracy su etichetta Nuclear Blast, è il terzo album per questa gothic metal band olandese dal cantato femminile ad opera della brava e topolona Simone Simons, che è anche un mezzo soprano, con diversi passaggi cantati in gutturale che sono opera invece del cantante maschile Mark Jensen, leader della band. Questo nuovo album è anche un concept, è presente come special guest anche il chitarrista cantante Sander Gommans dei connazionali After Forever. Vi ascoltiamo con il singolo dal titolo Never Enough. Io vi lascio con le note di questo brano, vi lascio ad un'altra topolona, la nostra Claudia. Lei non è un mezzo soprano, è mezzo e basta, comunque tra non molto arriverà con il suo consueto appuntamento. Un grazie per avermi seguito, grazie a Simone per le scalette e autore di tutte le nostre bio, il nostro sponsor Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano. A domani sera su Rock FM con Arden Davy. Da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao.